sui tuoi capelli biondi giocava il vento e poi un volto sconosciuto ha giocato i giorni miei. Un accordo di chitarra non mi basta più, io spingo gli occhi al cielo, un'ala bianca c'è. Il giro del tuo sguardo più non vede me, quanto buio in un pensiero, dopo il sole insieme a te. Un accordo di chitarra non mi basta più, io spingo gli occhi al cielo, un'ala bianca c'è. Fantasmi senza casa son questi sogni miei. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai. Ma una goccia di speranza lenta scende giù. Nel giro del mio sguardo un'ala bianca c'è. E ricordo